Non so quanti di voi si occupino di teologia o di esegesi neotestamentaria, ma anche chi non se ne occupa, io vi assicuro non me ne occupo più di tanto, anche chi non se ne occupa avrà preso che un dotto gesuita inglese, padre Brenda Byrne, in un suo lavoro del 91 che oggi è felicemente approdato in Italia, ha espresso dei seri dubbi sull'episodio della resurrezione di Lazzaro, come ci è narrato dal quarto Vangelo, il cosiddetto Vangelo di Giovanni, al capitolo 11. Ne hanno parlato tutti i nostri giornali domenica scorsa e la Stampa di Torino, che ho visto per puro caso, vi ha dedicato persino 5 colonne in taglio basso a pagina 5 con una foto rappresentante l'emergere dell'ex defunto dalla tomba, rivissuta per ovvie esigenze attraverso la cinepresa dell'onorevole Zeffirelli. Ora, non venitemi a dire che della resurrezione di Lazzaro, come dettagliatamente descritta in quel testo, dubitavate anche voi, perché questo non interessa niente a nessuno, una cosa che ne dubitiamo io o voi, un'altra che ne dubiti un gesuita eminente che pubblica per i tipi del gruppo San Paolo, e oltre ad essersi laureato ad Oxford e aver insegnato in varie parti del mondo e scrivere sulla rivista Commentary, è uno dei 19 membri della Pontificia Commissione Biblica. E nonostante questo lui dice che il miracolo della resurrezione di Lazzaro potrebbe non essere avvenuto nel modo descritto da Giovanni, e di conseguenza, virgolette, il racconto di quel gesto straordinario compiuto da Gesù, riportare alla vita un uomo già sepolto da 4 giorni, non sarebbe la fotografia verbale di un fatto realmente accaduto, ma un simbolo, un modo idealizzato usato dalla Chiesa primitiva alla fine del primo secolo per rispondere al problema del dolore e della morte nell'ambito della speranza cristiana. Fine della citazione. E ammetterete anche voi che come posizione è piuttosto ragionevole. L'autore dell'articolo spiega che si tratta di un'applicazione della cosiddetta lettura simbolica del Nuovo Testamento. Gli studiosi che applicano questa tecnica non negano a priori che quanto raccontato dal testo abbia maggiore o minore base di verità, ma sono interessati soprattutto al significato dell'episodio, ai bisogni e alle risposte legate all'uso del simbolo. Personalmente li capisco benissimo. Che nel Vangelo i simboli allinino con una certa virulenza è abbastanza noto, che l'autore del quarto Vangelo sia o non sia l'Apostolo Giovanni, che mi sembra di ricordare, cosa tutt'altro che pacifica, ne sia particolarmente appassionato, è cosa che risulta a prima lettura, e che l'episodio della resurrezione di Lazzaro non sia inserito nel Vangelo per raccontare un fattorello singolare, ma per esprimere un certo numero di ipotesi interessanti sulla figura di Gesù e sul suo ruolo in questo mondo e nell'altro, è assolutamente evidente. Non so per quali motivi padre, come diavolo si chiama, abbia deciso di negarne la storicità, ma certo ne avrà avuti di ottimi. Non so. Avrà pensato che l'eccezionalità dell'evento avrebbe meritato una collocazione meno periferica nella tradizione, o che abbisognasse di almeno un'altra testimonianza indipendente, o l'avrà considerato contraddittorio con altri aspetti di quella tradizione che a lui interessano di più. Non lo so, e sono fatti suoi. Però due cose mi hanno stupito parecchio, e devo dirvele. Uno, perché quel bravo gesuita, dopo aver fatto 30, non ha fatto 31, e si è come sforzato di attenuare il peso delle sue illazioni scrivendo che comunque non possiamo escludere la possibilità che la tradizione sulla resurrezione di morti operate da Gesù siano storicamente fondate, anche se molto probabilmente sono d'origine diversa. Se non possiamo escludere una possibilità, metodologicamente non c'è motivo di escluderla, e sostituire a una certezza una probabilità, sia pur alta, è operazione che lascia tutto sommato un po' dubbi. Ma passi. Perché in fondo i gesuiti sono noti per il loro senso della diplomazia, e anche il nostro avrà deciso che nel lasciarsi aperta una porta, in caso di necessità, vista l'aria che tira in Vaticano, non ci sia niente di male. Ma è la spiegazione che dà di quella probabile origine che lascia davvero un po' perplessi. Lui spiega che durante la redazione dell'ultimo dei 4 Vangeli accettati, che è quello di Giovanni, alcuni episodi riguardanti in origine delle guarigioni compiute da Cristo su delle persone in procinto di morire diventavano racconti di resurrezione di persone già morte, a causa di una tendenza a gonfiare la tradizione in senso teologico. E no, e a questo punto non ci siamo. Tanto per cominciare, non si capisce di che guarigioni parla padre Byrne. O sono guarigioni in senso moderno, ottenute applicando i precetti e i prodotti dell'arte medica, che nel contesto non mi sembra probabile, o sono guarigioni che conservano comunque qualche aspetto di eccezionalità e quindi restano miracolose. E i miracoli sono miracoli. Non sembra utile disporvi in una scala di miracolosità a seconda dell'importanza mondana nell'evento. Il miracolo è la rottura di una conseguenzialità che ci aspettiamo dalla natura, intendendo per natura un certo numero di eventi organizzati secondo un paradigma dato, e se nel mio paradigma non è prevista, oltre che la resurrezione dei morti, neanche la guarigione istantanea dal raffreddore, come credo sia il caso oggi e fosse il caso ieri, una guarigione istantanea dal raffreddore sarà altrettanto miracolosa del richiamo in vita di un morto da 4 giorni. Per evitare la definizione di miracolo dovremmo cambiare il paradigma, ma questo è un malvezzo metodo epistemologico cui sarebbe rilevante credere che amasse indulgere nostro Signore. Il fatto è che se io elimino un miracolo, diciamo così, di grande portata e lo sostituisco con un miracolo di portata inferiore, mi resta il miracolo con tutti i problemi teorici che mi pone, e in più ho ottenuto il bel risultato di limitare la capacità miracolatoria di chi lo ha compiuto. Nel Vaticano hanno commentato che il testo di Padre Bern è sul filo del rasoio e che se pubblicato prima del concilio sarebbe finito all'indice, ma questo atteggiamento è deplorevolmente rilassato. In tempi teologicamente meno incerti lo avrebbero spedito sul rogo. Eppure ha ragione lui, se ci pensate. E vedrete che la sua carriera non ne soffrirà per niente. Il fatto è che la gente non crede ai miracoli. Tutti sanno fin troppo bene che i paradigmi cui sono avvezzi funzionano con una regolarità deplorevolissima ma assoluta. E allora può essere utile spostare l'attenzione da un paradigma noto, chi muore non risorge, ve lo assicuro, a un paradigma mal noto, più incerto, in certe circostanze che non staremo qui a approfondire, chi è in punto di morte può cavarsela. Perderemo qualcosa sul piano della drammaticità del racconto, ma la religiosità moderna non si preoccupa più tanto del dramma, preferisce tranquillizzare che scuotere, e del racconto salveremo la sostanza che è il miracolo, che nel contesto dei Vangeli ha delle utili funzioni su cui adesso non stiamo a indulgere. È un po' il principio della botte piena e della moglie ubriaca: salviamo la credibilità e manteniamo l'eccezionalità, come quando Berlusconi promette di aumentare le entrate diminuendo le tasse. Ma è appunto questo il problema: a Berlusconi hanno creduto in tanti, perché non dovrebbero credere a un astuto gesuita? O naturalmente viceversa. The blue day. The blues ain't nothing. The blues ain't nothing but a cold gray day. And all night long it stays there.